si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, questa è una puntata dal sapore inevitabilmente pasquale, quindi cioccolato, sarà un po' diverso, cioccolato, molto cioccolato, sarà e gli zuccherini delle colombe anche. Bravo, bravo, tante cose così. Sarà una puntata un po' diversa dal solito, risentiremo anche alcune delle storie più belle che abbiamo mandato in onda in questo periodo. È un best of, diciamo. Un best of, ma anche cose nuove. Certo. Sospendiamo il nostro contest Inviati Cercasi. Questo è un peccato, è un peccato, perché era bello obbligare qualcuno il giorno di Pasqua invece a doverci dare una notizia, non so, in un posto in cui non si festeggia la Pasqua, per esempio. In effetti ci poteva stare, però abbiamo deciso di sospendere perché, non essendoci l'interattività con gli ascoltatori, oggi non si può intervenire in diretta, insomma era più bello aspettare e tornare nella forma consueta con anche il nostro contest Inviati Cercasi. Questo è l'hashtag su Twitter, se volete avere informazioni, se no andate sul sito di Radio 24. Lo possiamo spiegare però per le prossime puntate, certo. Giusto? Quello che noi cerchiamo sono degli inviati. Bravo. Che abbiano delle buone notizie o comunque delle notizie di buone pratiche che conoscano loro, quindi ci interessano le storie raccontate non per forza da chi ha diciamo creato quelle storie, sì, ma da chi probabilmente le conosce meglio, perché magari sono notizie più piccole, più di nicchia, più vicine a casa loro, la città, esattamente, certo. Quindi noi diamo tutte le settimane una parola sulla quale concentrare la vostra attenzione, quindi di trovare la notizia che contenga in qualche modo questa parola. Dopodiché voi ci scrivete sul sito, ci scrivete su Twitter, dove volete, e noi mercoledì, giusto Alessio, sì, correggimi se sbaglio, vi contattiamo, diciamo, colui che scegliamo, abbiamo prescelto, esatto, e la mandiamo e in onda, lo investiamo di questo ruolo. E dopo a questo punto ci richiamano loro il sabato per dare la notizia in diretta. Però questo a partire, ritorniamo dalla settimana prossima. Adesso andiamo ad iniziare. Allora, questo è il nostro momento, anzi il tuo momento, Carlo. Quando sento questa musica, ormai anche in discoteca è molto divertente, perché inizio a parlare, so che è il mio momento, e di solito mi guardano molto male, ovviamente, in discoteca, però non si vede niente perché è buio, quindi va bene. E non si vede niente neanche in radio, quindi va bene lo stesso. Esattamente. Vuoi molto bene. Così, subito, sì. Vogliamo iniziare così. Allora, una notizia interessante è questa. Esce una nuova rivista. Di solito quando escono nuove riviste ci si interessa poco delle nuove riviste scientifiche, soprattutto non è che ci sia del gran rumore, però questa è una rivista che si chiama Porn Studies, quindi è il numero d'esordio, è la prima rivista scientifica al mondo interamente dedicata allo studio del porno. Sempre lì andiamo a finire, però è interessante perché è da un punto di vista scientifico. È stata fondata in Inghilterra da due giovani sociologhe, Fiona Atwood, docente della School of Media and Performing Arts della Middlesex University, e Clarissa Smith, che è una ricercatrice della Faculty of Arts, Design and Media della Sunderland University. Questa era la parte più difficile era dire tutti questi nomi in inglese, ovviamente. E c'è una bella intervista su Repubblica a la professoressa Atwood, alla quale giustamente chiedono come mai fare oggi una rivista sul porno, e dà una bella risposta, perché dice: come ogni altra attività umana, noi riteniamo che il porno non meritasse un'analisi approfondita dal punto di vista storico, estetico e dal suo ruolo e significato sociale nella cultura contemporanea. Poi c'è una seconda ragione, ed è il fatto che internet effettivamente ha cambiato completamente il porno, perché lo ha fatto uscire, diciamo, dai porno shop e dai cinema, cioè detto così, diciamo, più che l'ha fatto uscire, diciamo, non è più solo confinato lì, esatto, lì, perché c'è ancora lì, di ognuno di noi, insomma. Ognuno di noi, diciamo, ce l'ha portato a portata di computer, in completo anonimato, ognuno se lo può guardare a casa sua. Quindi l'argomento è interessante, perché il porno sul web è l'argomento più cliccato in assoluto, e uno potrebbe dire vabbè, è ovvio, però è interessante capire come mai c'è, e la storia del porno. Ma la rivista settimanale che cos'è? mensile? È una, per il momento esce il primo numero, non si sa ancora. Non si sa neanche se uscirà il secondo. No, no, penso di sì, ma perché sono molto serie loro in realtà. Beh, dicono, anche, eh, dicono anche: non vogliamo essere né antagonistici né celebrativi nei confronti della pornografia. Ci limitiamo a notare che non esiste un solo tipo di porno, ma diversi, vabbè, diversi, cioè, modelli. Scusami, devo, sì, chiudere con questa cosa qua. Perché loro dicono: siccome è un fenomeno complesso, va studiato senza preconcetti. Alla domanda, giustamente, no, fatta, ma come, studiose, cosa rispondereste a genitori preoccupati che i propri figli siano esposti alla pornografia online e confondano quella visione del sesso con la realtà dei rapporti sessuali? La risposta è interessante per tutti, perché dice: non nego una preoccupazione di questo tipo, ma il porno non è l'unica forma di comunicazione o intrattenimento di massa che fornisce una visione esagerata, fuorviante della realtà o comunque diversa dalla vita di tutti i giorni. Ce, se uno guarda altre, le telenovelas in TV, beh, insomma, e pensa che siano lo specchio, no, invece è molto giusto, e pensa che quello sia lo specchio dei rapporti reali nel mondo, fa ugualmente un errore. Lo stesso si potrebbe dire per i telequiz, i reality show, no? Uno pensa è solamente quello il modo per diventare famosi. Vabbè, le due, no, ricercatrici tirano un po' l'acqua al loro mulino, però insomma è interessante, si può fare anche questo, una rivista. Esattamente, il punto è educare e capire la differenza fra finzione e realtà, quindi non è per propagandare il porno, ma per, sì, comprendere che quello è un genere, dopodiché la vita reale è un'altra. Non credo che censurare un fenomeno, bollarlo a priori come nocivo, permetta di esorcizzarlo. Ecco, a questo punto posso dire una cosa anch'io, così diciamo sento, baby, il bisogno di dare un po' di peso qua alla situazione, anche se la puntata è pasquale. Allora voglio dire questa cosa qua: noi abbiamo finalmente, questa è una buona notizia di questa settimana, una legge contro il voto di scambio. È stata approvata tra qualche polemica, perché le pene sono state abbassate tra la prima e la seconda lettura, Movimento 5 Stelle in fibrillazione, però finalmente abbiamo una legge per cui il politico che chiede il voto in cambio di un favore commette un reato, come più di prima, perché prima non era così. No, perché prima, se non, perché me l'hai insegnato tu, cioè, solo, parlando era previsto qua in solo con lo scambio di denaro. Denaro, adesso se io ti trovo un lavoro, esattamente, anche quello un favore, è voto di scambio, un favore, le famose il scarpe, sesso, per esempio, appunto per il porno. Il punto però è questo: che ci vogliono gli anticorpi, perché gli anticorpi tra le persone, perché se aspettiamo che sia una legge a sanzionare il voto di scambio, poi ci vuole il processo, ci vogliono mesi, ci vogliono anni, passa un sacco di tempo, il politico rimane lì, lo sappiamo benissimo. Se ci sono gli anticorpi, invece cosa succede? Quello che è successo per esempio in Australia, dove il governatore di uno stato australiano, New South Wales, si è dimesso perché aveva ricevuto come regalo durante la campagna elettorale una bottiglia di vino. Ah. E siccome aveva detto: io non ho mai ricevuto regali da nessuno, non devo favori a nessuno, quando è venuta fuori questa cosa che lui non aveva denunciato, perché li devi denunciare, una bottiglia di vino del valore di 2.000 euro, ma bottiglia di vino, si è dimesso. È straordinario. Ma complimenti, straordinario. Io pensavo, quindi, fosse una bottiglia di vino che faceva schifo, invece no, da 2.000 euro sarà stato un vino ottimo. Non è ancora stata stappata, quello che mi risulti, però questo è il fatto, la sostanza, la legge sì, ma ci vogliono gli anticorpi tra le persone. In Italia se uno commette un reato diventa un idolo, in Australia no, no, esattamente. Chiudo solamente e proseguo, diciamo, sulla la questione del porno. Scusami, Alessio. No, però, no, non è. È semplicemente per unire, diciamo, la notizia che veniva dall'Inghilterra con la notizia nostra, perché direi che la notizia sullo studio sul porno dovrebbe far molto piacere a Gualtiero Bomba, che ha 55 anni, è uno dei 30 candidati della lista elettorale del Movimento 5 Stelle a Firenze, che si è scoperto che ha fatto in gioventù dei film porno. E lui stesso ha ammesso questa cosa, dice: si tratta di 4 film porno prodotti a Firenze. Mi ha fatto un po' ridere la sua giustificazione, dove dice: ma sì, li ho fatti semplicemente per gioco o per scherzo tra amici, è stata una goliardata. Diciamo che è una giustificazione che evidentemente funziona per quelli del Movimento 5 Stelle, ma non funzionerebbe per mia mamma, perché io se le dicessi ho fatto dei film porno, ma sì, ma è stato uno scherzetto, una cosa così, non credo che sarebbe sufficiente. Lui comunque dice che per non creare nessun tipo di problema ha rimesso il giudizio sul suo conto alla base, come nel solito modo del Movimento 5 Stelle. Dopo l'articolo ha fatto un bel sondaggio su Facebook, dove ho scritto: lui, secondo voi sono adatto a rappresentarvi? E pare che tutti abbiano detto di sì. Ammetto che, essendo il porno la cosa più cliccata in rete, evidentemente forse non è la rete il posto giusto per chiedere se tu, che hai fatto dei film porno, sei adatto per rappresentare il Movimento 5 Stelle. Allora, facciamo il punto adesso, perché abbiamo detto una puntata particolare, risentiremo anche alcune storie, e tra le cose che risentiremo, per esempio, ti ricordi il sindaco di Racale, Donato Metallo, quello che in Puglia voleva produrre la cannabis sul suo territorio, nel territorio del suo comune? Certo che me lo ricordo, lo chiamo spesso, si può dire.

questo. Ah, certo, quindi uno può chiedere anche a un privato, anche... coltivo questo tuo pezzetto di terra che tanto tu stai lasciando abbandonato. In senso lato, ci sono anche conventi, certo, che sono disposti, oppure anche aziende. È vero, ci sono una serie di situazioni intermedie strane che possono essere sondate, capire se il proprietario, l'ente pubblico o qualche associazione ha magari interesse a che tu, o quantomeno non ti ostacola, certo, e ti dà l'autorizzazione. Ma ovunque possono essere questi orti urbani? Ovunque, la cosa chiave è costituire uno zoccolo duro di un gruppetto anche minimo di persone motivate che si diano da fare per capire ogni passaggio, come organizzarsi. Silvia, l'ultima cosa, visto che adesso ci dobbiamo salutare, diamo l'indirizzo del sito per chi volesse vedere come sono questi orti romani, dove sono. Sì, sì, è www.zappataromana.net. Semplicissimo, perfetto. E trovate sia il manuale che la mappa e altre testimonianze, anche video di altri giardinieri e orticoltori. Ottimo. E si può andare a zappare anche nei giorni di Pasqua, non è che per forza uno deve si può zappare sempre. Certo, assolutamente. Chiuderei con Viva Zappata! Grazie, buona grazie Pasqua, auguri a Silvia Cioli, cofondatrice di Zappata Romana, grazie per essere stata con noi. Noi ci fermiamo, facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori, con Si può fare. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Ah, puntata un po' particolare, puntata dal sapore, abbiamo detto, pasquale, cioccolata e zuccherini. Esatto. Hai detto tu prima. Sì, è giusto. Confermi? Confermo, tanto cioccolato, tanti zuccherini. Noi ancora no, più perché cioccolato. È mattina, poi arriveranno in giornata, con calma. Ma io ho iniziato un po' anche stanotte. Puntata nella quale stiamo risentendo alcune delle storie che abbiamo dato in onda dei giorni scorsi, ma anche cose nuove. Adesso vi vogliamo raccontare, anche se sono giorni in cui non si lavora molto perché c'è il ponte di Pasqua, appunto, una storia, un caso aziendale. Dice, perché questo caso aziendale e non altro? Perché a noi ci interessa la sostenibilità, l'economia che guarda al futuro. E questa è un'azienda importante italiana che guarda al futuro. Vuoi dire il nome? Alche. Parliamo di un'azienda che, leggo dal loro sito, produttore europeo di veicoli professionali a zero emissioni con le migliori prestazioni e qualità della categoria forniti al mercato globale. Adesso vediamo, adesso sentiamo Monica Voltan, vice responsabile del marketing di Alche. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo deciso di occuparci di questa storia perché, come dicevamo, l'economia che guarda al futuro ci sembra interessante. Quindi non ce ne vogliono tutti gli altri produttori, i vostri concorrenti. Anzi, diciamo, intanto voi che quota di mercato avete, del vostro mercato di riferimento in Italia, tanto per dire? Allora, il nostro mercato di riferimento sì, copre diversi settori. Per lo più comuni, municipalizzate, settore del turismo, sì, e logistica, ecco, questo sono i principali. Però voi siete molto forti, per esempio, in Europa, all'estero, a Londra, in Olanda. Esatto. Vendete, non so, i mezzi che servono per trasportare le cose all'interno della città, o anche per fare le pulizie, credo, insomma. Però in esatto. Italia un po' meno. Tutti i veicoli elettrici, tra l'altro, quindi a bassissime emissioni, che fanno risparmiare, bla bla bla. Però in Italia come vanno le cose? Sì, diciamo che rispetto al mercato estero l'Italia ha una quota inferiore. Un po' inferiore. E questa è quella cosa che ci fa sempre cadere le braccia, no? Diciamo, ma come mai? Però com'è diciamo possibile? Che ci stiamo muovendo anche in Italia. Ma nel senso che in Italia in generale si vendono meno veicoli a esatto. emissioni zero? Sì, o... sì, sì, in generale. Okay. In generale, non parlo del nostro caso specifico. Ma forse perché i nostri comuni sono un po' in bolletta, siccome i committenti spesso sono enti pubblici, insomma, lei ha detto esatto, municipalizzate, aziende dei rifiuti. E tu dici in bolletta, siccome sono cose elettriche, poi c'è la bolletta dell'elettricità, giustamente. Devo dire che si stanno muovendo, vuoi per una cresciuta sensibilità appunto sì. alla sostenibilità, per valutazioni anche di costi oppure incentivi che arrivano dalla comunità europea, insomma. Però, ecco, è un mercato sì. con grandi potenzialità. Ci faccia un po' sognare, ci faccia godere, sì. così diciamo. E voi, per esempio, vendete, io ho detto a Londra cosa rifornite? Chi rifornite? Allora, a Londra siamo ad esempio all'aeroporto di Heathrow, è recente la vendita nel Palazzo Reale londinese di Kensington Palace. Cosa vendete al Palazzo Reale? Veicoli che utilizzano per la manutenzione del parco. Quei silenziosi che non fanno emissioni esatto, di nessun tipo elettrici. Sì, no, ci sono tutti, sono 100% elettrici, noi abbiamo solo veicoli 100% elettrici, quindi a zero emissioni e silenziosi. Che si ricaricano, giusto? Attaccando la presa, diciamo. Sì. Esatto, con una normale presa standard. E all'aeroporto di Heathrow cosa date? Quelli che servono per spostare i passeggeri o i bagagli, quelle cose lì? Esatto, sì, sempre manutenzione, trasporto bagagli, principalmente sono queste le attività per cui vengono utilizzate. Ma anche i veicoli che servono per la manutenzione del bike sharing in qualche città europea, esatto. Cioè quando vediamo in centro a Londra sì. vengono utilizzati per il trasporto delle bici da una postazione all'altra. Quello che noi vediamo in giro a volte a Milano con dei camion a diesel che inquinano molto. Adesso mi chiamerà qualcuno del comune per dire che sicuro. Non è vero. Cioè, però tu dici con tutte le biciclette lì, tu dici sì. ma come arrivi e fai tutto questo col fumo. Col classico furgone, esatto. Ma i motorini elettrici come vanno? Come? I motorini elettrici... Ma non so se è nel loro core business. Lo sto no, chiedendo. No, noi non ci occupiamo di... Abbiamo solo veicoli da trasporto, veicoli da lavoro... Ah no, perché io non avendo la patente uso il motorino, volevo un motorino elettrico, volevo capire se esistevano, come funzionavano. Abbiamo parlato in un'altra puntata, ne parliamo, ma è di Strato, esatto, è un'azienda esatto. di Bologna. Senta, ma invece ci dica un'altra cosa, ma questi veicoli, chi sono i concorrenti, diciamo, per esempio i produttori in Italia, avete dei concorrenti che fanno lo stesso lavoro? Sì, c'è Piaggio che produce dei mezzi, diciamo... più o meno sullo stesso livello, poi c'è Renault che ha una gamma di elettrici. Però è produttore francese, quindi tra gli italiani esatto, voi Piaggio? Gli italiani, sì, Piaggio principalmente. Beh, insomma, avete un concorrente di tutto rispetto, però mi sembra che voi vi state difendendo bene. Un'azienda tutta italiana, è così? Esatto, abbiamo in Italia, più precisamente a Padova, abbiamo la sede dove gestiamo progettazione, prototipazione, produzione, post vendita, tutto gestito dalla sede centrale. Ma, e questa è anche una garanzia. Insomma, ma anche la produzione o no? La produzione la fa dove la produzione, fa? Sì, certo, tutto. Ah, questa è una notizia straordinaria. Ma e Alkeda, da che cosa viene questo nome? Dica questa cosa. La parola greca significa forza. Forza. E che la forza sia con voi, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano. Noi dobbiamo chiudere qua e ringraziamo la vice responsabile del marketing di Alkeda, Monica Voltan. Grazie mille, auguri anche a lei. Grazie. Auguri. Buona giornata. Grazie altrettanto. Hai sentito che bella storia? Bello, bello. Speriamo che cresca. E speriamo che cresca in Italia, come dici tu, perché vendono in 40, ho letto che vendono in 40 paesi nel mondo, praticamente ovunque, e il paese invece manchiamo più solo difficoltoso, noi. Diciamo che fa meno investimenti, è l'Italia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Nonostante la crisi, i partiti, le tasse, c'è un'Italia che reagisce, che non molla, che va avanti e crede nel futuro. Daniel Tarozzi ha deciso di salire sul camper e andare a scoprirla e a raccontarla, questa Italia dei buoni. Il libro si chiama Io faccio così, chiare lettere, viaggio in camper alla scoperta dell'Italia che cambia. Lui è Daniel Tarozzi, che è qua in studio con noi. Buongiorno Daniel. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Lui è un collega, un giornalista, fondatore di italiachecambia.org, un sito che, come si capisce anche dal nome, ha questo imprinting proprio della ricerca del cambiamento verso un qualcosa di positivo. Un viaggio che tu hai compiuto, Daniel, quindi questo sito è anche un po' la raccolta

nei beni comuni all'interno appunto di un quadro pubblico. Sono che è passati... sempre molto difficile perché i volontari non si sa mai, possono lavorare, sì, non possono lavorare, non sono pagati. Ti ricordi, avevamo raccontato la storia sul lago di Como di, quel, certo, di quei due pensionati che volevano usare il traghetto per pulire e ripulire il lago di Como da, è sempre dai resti mattina molto presto, ma io ascolto, lo so che sembra che te dormo, ma in realtà... te lo ricordavi, pensavo di prenderti il castagna, invece no, no. Insomma, lì non si era riusciti a farli lavorare perché mancava proprio un contesto, un'assicurazione, un regolamento. È quello che tenta di risolvere proprio il regolamento per l'amministrazione condivisa che è stato presentato a Bologna il 22 di febbraio, un'iniziativa portata avanti da Labsus, il laboratorio per la sussidiarietà. Ritroviamo il presidente Gregorio Arena, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto sono passati appunto quasi due mesi, voi avevate detto mettiamo questo regolamento a disposizione di tutti i comuni italiani che lo vogliano utilizzare, farne un modello, e so che avete avuto già un po' di richieste, com'è andata? Beh, oltre 2000 persone l'hanno scaricato dal sito di Labsus, quindi direi che è andata decisamente bene. Di questi 600 sono amministratori comunali. Però. Perché la cosa interessante è che in realtà i cittadini vogliono prendersi cura dei beni comuni del territorio dove vivono. Quindi il regolamento non è tanto per far lavorare i cittadini, diciamo, al servizio dei comuni, al contrario, sono i cittadini che vogliono prendersi cura dei luoghi dove vivono. Certo, vogliono ma non giusto, possono, diciamo, come si suol dire. Adesso possono. Finora non potevano, adesso che c'è il regolamento possono, però bisogna che il loro comune adotti il regolamento. Quindi insomma 2000 diciamo download, sì, del regolamento di questi 600 amministratori comunali vuol dire che avete aperto una strada, avete fatto breccia, insomma creato già una tendenza, magari non sarà ancora dominante, però non sono pochi 600 comuni. Vogliamo ricordare anche proprio anche con qualche esempio in sintesi questa cosa, in cosa consiste questo regolamento, Arena? Sì, il cuore del regolamento è il patto di collaborazione, cioè sostanzialmente se un comune adotta il regolamento, a quel punto i cittadini di un quartiere, per esempio, possono dire al comune: guarda, noi vorremmo prenderci cura della piazzetta qui nel quartiere. Sì. E il comune dice: va bene, d'accordo, ci sediamo intorno a un tavolo e decidiamo come si fa, chi lo fa, quanto costa, quanto tempo ci vuole, chi fa le verifiche, e poi i cittadini partono. Tutto questo di fatto sta già succedendo, solo che succede senza regole e quindi sono tutte energie sprecate. Diciamo che questo regolamento mira a liberare queste energie che ci sono nei comuni italiani, ma i cittadini, sì, non lo fanno per l'amministrazione, sì, è chiaro, lo fanno per stare meglio loro. Ecco, ma a chi dice, avanzando una critica, no? Sì, però dovrebbe pensarci il comune, se il giardino è comunale, se la piazzetta è pubblica, io vorrei vedere gli spazzini, vorrei vedere gli operatori del comune intervenire e non bisogna scaricare sui cittadini. È una critica che io già sento nelle orecchie perché conosco gli ascoltatori di Radio 24, oggi non possono intervenire in diretta, ma se potessero lo farebbero. Farebbero così. Lei cosa risponde, Arena? Direi che hanno perfettamente ragione, che hanno tutto il diritto, se pagano le tasse e rispettano le leggi, di pretendere che il comune faccia il suo dovere. Detto questo, ci sono migliaia di persone che, al di là del fatto di pagare le tasse o meno, vogliono farlo e si divertono, perché questa è l'altra cosa interessante che abbiamo scoperto, cioè agli italiani piace scendere in strada insieme con i vicini, rimboccarsi le maniche e tenere in ordine i luoghi dove vivono, ed è del tutto volontario. Voi stessi avete usato all'inizio il termine volontario, quindi se uno non lo vuol fare non lo fa, ma siccome c'è un sacco di gente che lo vuole fare è giusto lasciarlo. È chiarissimo, fare, certo, è una possibilità in più, quindi forse è anche un po' inutile lamentarsi, nel senso che non toglie niente a nessuno, è semplicemente una possibilità in più. Perfetto, assolutamente. Vogliamo allora dare la parola anche a questi volontari che noi abbiamo convocato, una delle tante storie annesse e connesse al mondo del regolamento per l'amministrazione condivisa. Siamo a Scampia, un quartiere di Napoli, e abbiamo con noi Giuseppe De Caro, che è responsabile eventi di Pollici Verdi Scampia. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti voi. Pollici Verdi Scampia, già diciamo si intuisce, no, di cosa stiamo parlando, ce lo spieghi però lei. Ci occupiamo in pratica di la riqualificazione di un parco, si chiama, sì, Parco Orto Maltese, che è un parco di circa 20.000 metri quadri. La nostra realtà, diciamo, è nata circa un anno e mezzo fa, due anni fa. Abbiamo iniziato, diciamo, a pulire i muri, spazzare i viali, aggiustare le aiuole, piantare alberi, piante, fiori. E in pratica abbiamo poi fatto dei murales. in pratica abbiamo riqualificato questa zona. Ma in quanti siete a fare? Perché 20.000 metri quadrati, se ho capito bene, non sono pochi. In realtà siamo pochini, cioè intorno ai 15-20 persone. Pochi ma bravissimi. Pochi ma bravi. Sì, esatto. Ma siete, diciamo, appassionati del verde, esperti, o semplicemente persone che magari, non so, la mattina vanno, lavorano in banca, poi il pomeriggio hanno voglia di passare un'ora in compagnia a ripulire il giardino, o cosa? O magari anche disoccupati che non sanno cosa fare e pensano che magari ci potrebbe uscire anche un incarico, un lavoro un domani? No, in realtà da questo non ce l'aspettiamo. Siamo una quindicina di noi, diciamo la metà di noi siamo disoccupati, sì. E dedichiamo questo tempo. Nessuno di noi inizialmente era esperto del verde, poi pian piano ci siamo fatti una cultura, insomma. Ma vi chiamate pollici verdi? Noi pensiamo che siete degli espertissimi. No, in realtà non siamo espertissimi, no. Però adesso lo stiamo diventando. Diciamo, il nome era un'ambizione, il nome era un'ambizione. È un punto d'arrivo. È un punto d'arrivo. Esatto. Senta Giuseppe, ma i risultati si vedono? Cioè adesso il parco effettivamente, dopo diciamo, i vostri interventi, è bello, è più bello di prima, la gente sì, se ne accorge, sì. Vi ringrazia quando vi vede al lavoro. Sì, è bellissimo, infatti più volte abbiamo invitato anche il sindaco di Napoli. Ma è venuto? Sì, è venuto un paio di volte, quindi ha avuto anche lui modo di vedere le condizioni. Perfetto, ma De Magistris che dice? Lo adotta il regolamento per l'amministrazione condivisa di Bologna? Per il momento no, però lo dovremmo far adottare. Mi raccomando, fateglielo. Sì. Posso chiederle, Giuseppe, anche un'altra cosa? Perché visto che siamo in collegamento con Scampia, siccome questa settimana è rinata la polemica, ci sarà la fiction su Sky di Gomorra, tratta dal romanzo di Roberto Saviano, che parla insomma della camorra a Napoli, lo spaccio di droga, e ci sono alcune associazioni che hanno detto no, basta ancora parlare male di Scampia, non se ne può più. Voi che siete lì e vi rimboccate le maniche anche proprio concretamente, come la vedete questa polemica, questa fiction? In realtà noi come per la fiction siamo un po' contro a tutte le quando in pratica di Scampia si fa vedere solo il marcio, il male, perché Scampia non è solo questo. Certo, noi lo stiamo dimostrando. La realtà lo dimostra. Però bisogna far vedere anche il marcio, oppure proprio secondo voi, come dicono alcuni, non bisognerebbe farlo vedere per non rovinare l'immagine all'estero? No, in realtà bisogna farlo vedere, però molto spesso diciamo viene anche un po'... È enfatizzato troppo, esatto, sì, quindi non è tutto vero quello che si vede. Va bene, insomma, Carlo. Volevo chiedere una cosa brevissima, visto che abbiamo anche il presidente Gregorio Alena di Lapsus. Volevo chiedere una cosa sulla questione dei regolamenti, che mi sembra che abbiamo toccato un punto. Per esempio, tu prima, Giuseppe, dicevi abbiamo pulito tutto, abbiamo fatto dei murales. Ecco, per esempio, io sono favorevolissimo alla questione dei murales. Mi chiedevo, in questo caso qui, cioè se chi gestisce un pezzo decide di fare un murales, come funziona con il regolamento? Poi lo deve chiedere al comune il permesso per fare il murales, o una volta che ce l'ha in gestione quella cosa può decidere di fare dei murales? Questa è una buona domanda, ma probabilmente si può decidere prima, quando si stipula il patto di collaborazione. Ok, quindi è una cosa che va messa nero su bianco prima. Giuseppe forse voleva intervenire. Sì, prego. Giuseppe forse voleva dire una cosa. Sui murales non abbiamo chiesto un vero e proprio permesso su questa domanda. Occhio, perché poi ve lo imbiancano, è un peccato, eh. Ve lo inverdano, sono pollici verdi. Abbiamo avuto un permesso speciale. È speciale, sì, a voce. Va bene, insomma, bello, questo era un quadro su come sta andando avanti questa iniziativa che a noi sta appunto molto a cuore, il regolamento per l'amministrazione condivisa, che parte da Bologna ma va al resto d'Italia, la fotografia di Scampia. Io ringrazio Gregorio Arena e Giuseppe De Caro per essere stati con noi, grazie, buona grazie Pasqua mille. Anche a voi, auguri. Grazie mille. Grazie a voi. Dobbiamo fermarci qua, dobbiamo salutare, è il momento dei in saluti. In attesa della Pasqua di domani. In attesa della Pasqua, e poi ci risentiremo appunto domani. Intanto vogliamo ricordare anche i nostri contatti, se volete commentare quello che avete sentito, il nostro account Twitter è @ si può fare 24, il tuo Carlo. Il mio è @CarloGabardini. Il mio è @AleMaurizzi, siamo anche su Facebook, si può fare _radio24. Ci sentiamo domani. Un saluto a chi ci ascolta in podcast. Ciao, e ringraziamo anche Andrea Piana, Giorgio De Luca e Paolo Corleoni in regia oggi. Ciao a tutti.